Fuori Corso, a cura dell'Opera Universitaria. Ed eccoci arrivati con Fuori Corso, quest'anno in diretta da Mesiano, come per il quarto anno, mi dicono, dalla regia. Io sono Francesca, qui con me c'è Dennis, c'è la Nora, c'è anche Michele, detto anche l'esperto, come tutti ormai sanno. Quest'oggi tutti insieme per un intervento comunitario in diretta da Mesiano. Qua il parco si sta già riempiendo, si crede arriveranno più o meno 6.500 persone, quindi veniteci anche a trovare. Ma il programma di oggi è intensissimo. Dennis, a te la parola. Sì, saremo in diretta per 23 ore su RTT. Invitiamo tutti ad ascoltarvi dalla nostra postazione semovente ai piedi davanti alla Facoltà di Ingegneria. Noi saremo qui appunto a tenervi compagnia e incontreremo le varie associazioni che ci sono nel viale che porta ai palchi. Abbiamo già in lista le fantastiche redazioni di Quo Vadis e Studiare a Trento, che verranno qui a presentare i periodici dell'Opera Universitaria organizzati dai ragazzi 150 ore delle redazioni. Dopo incontreremo, oltre ai protagonisti che questa sera si esibiranno sui palchi di Mesiano, incontreremo le varie associazioni che animano questo viale gremito di gente che porta appunto ai palchi musicali di Mesiano. Per cui 3 ore di diretta, 3 ore di divertimento. Sintonizzatevi su RTT se non siete potuti venire qui a Mesiano. Ma adesso per le ultime cose passo la parola a Nora. Benissimo, e qua naturalmente c'è già una bellissima atmosfera, a parte l'esperto, e questa prometto sarà l'unica cattiveria che ti dirò in questa serata. Quindi se volete partecipare anche voi potete raggiungerci qui nella nostra postazione per registrare il vostro messaggio, che poi manderemo in onda nelle strisce serali del nostro programma. Quindi fatevi sentire, potete venire a lasciare un messaggino carino a dei vostri amici o magari anche a noi farci dei complimenti. Quindi detto questo io passerei la parola all'esperto e auguro buon divertimento a tutti quanti. Grazie Nora, grazie. A me a questo punto non resta che chiudere con i numeri di telefono, invitandovi a mandare un SMS al numero 333-42-30306. Oppure potete chiamarci in diretta al numero 0461-98-32-00. A me a questo punto non resta che chiudere con una canzone, ci risentiamo fra poco. State ascoltando Fuori Corso, a cura dell'Opera Universitaria. Siamo tornati a Mesiano in compagnia delle note dei REM con Shiny Happy People, e qui a fianco a me abbiamo una persona che certamente della simpatia è una delle sue caratteristiche fondamentali. Ospite di Fuori Corso ai nostri microfoni è Davide Ladava, il cantante dei Vallanzasca. Loro sono un gruppo ska di Milano. Vuoi raccontarci un po' le tue impressioni di questo festival di Mesiano, di queste migliaia di persone che sono qui in questa location straordinaria in mezzo agli alberi, con palchi nascosti in ogni angolo? Se vuoi dirci un po' che ne pensi di questo festival trentino. Guarda, adesso non vorrei dire, perché sono qua così, quindi devo dire per forza cose positive, otte, però è vero che sono sceso dal furgone, mi è sembrato di essere in un paradiso, cioè praticamente tutti sdraiati a limonare sui tavoli in mezzo ai pini, cioè proprio l'università del sesso, diciamolo, credo che sia così è chiamata anche. Per cui ottima impressione. Abbiamo 2 ore prima di fare il soundcheck, noi volevamo appunto andare in giro ad attaccare questi rotolamenti. Fuori Corso, a cura dell'Opera Universitaria.